Mercoledì 16 novembre. Certo, tutti i titoli dei giornali sono dedicati a questa giornata importante. Allora, governo Monti al via, ora le riforme, così titola Il Sole 24 Ore in prima pagina. Vediamo qualche altro titolo. Monti al Quirinale per il nuovo governo, questo è l'apertura del Corriere. La Repubblica, nasce il governo Monti, ora sacrifici. Per La Stampa, Monti ce la fa, oggi il governo. Guardate invece Il Giornale, non può durare molto. Insomma, due visioni ben opposte. Ombre di inciucio, così titola Il Fatto Quotidiano, mentre Libero, cominciamo male. Nasce il governo Monti per Il Messaggero. Il Manifesto, bocconi amari, gioca ovviamente sul ruolo di presidente della Bocconi del professor Monti. Le spine di Monti anche per l'Unità, mentre Avvenire, Monti è quasi in cima. Molti che giocano anche su questi doppi sensi con il cognome di Monti. Va bene, intanto voglio segnalare due storie, piccole storie, qualcuno dirà grandi storie, grandi spaccati dell'Italia, perché a me piace ogni tanto vedere e fotografare l'Italia anche da questi piccoli grandi episodi. Giustizia folle, un giorno di lavoro vale il posto fisso. Così racconta Il Giornale a pagina 14 e la storia racconta Cristiano Gatti a Varazze, 1 luglio 2010. Un lavapiatti egiziano di 32 anni firma il contratto a termine per lavorare in un ristorante. Previsto il periodo classico di prova, 30 giorni, ma al datore di lavoro ne basta uno. La sera stessa dice al lavapiatti non se ne fa nulla, non lo ritiene all'altezza. Tutto finito? Ma che? Il lavapiatti si prende un avvocato, fa causa e a decidere il Tribunale di Milano con un verdetto storico. 14.200 euro di risarcimento da parte del ristoratore al lavapiatti, ma soprattutto l'obbligo di assumerlo a tempo indeterminato. Una sentenza shock, anche se l'accordo tra le parti era di 6 mesi della messa in prova. E nelle motivazioni del tribunale si legge che una sola giornata non è sufficiente per valutare le capacità del lavoratore, e scrive Cristiano Gatti, questo può essere anche vero, infatti non colpisce tanto il risarcimento, può darsi davvero che il lavapiatti sia stato vittima di una palese ingiustizia tanto da meritare un risarcimento, 14.200 euro, ma quello che nessuno davvero riuscirà mai a capire è perché il ristoratore debba riprenderlo ora a tempo indeterminato. Dopo aver firmato un accordo di 6 mesi, il lavapiatti si ritrova 14.000 euro e il posto fisso. Cos'è? Un nuovo miracolo italiano? Così titola Il Giornale, giustizia folle, un giorno di lavoro vale il posto fisso. Piccola grande storia di uno spaccato d'Italia da Varazze. E seconda piccola grande storia, questa volta da Bologna, a pagina 31 del Corriere della Sera, ne scrive Francesco Alberti, indovina i vincitori, ben 13, di un concorso. Non ne ha sbagliato uno, 13 su 13, nome e cognome. È il record di Antonio Amorosi, ex assessore a Bologna nella giunta Cofferati, ora battitore libero tra politica e giornalismo, che ha compilato qualche mese fa la schedina perfetta anticipando i vincitori di un concorso indetto dal comune di Bologna. Lo ha fatto tra 275 candidati scrivendo al sito affariitaliani.it ai primi di novembre. Ha detto: guardate che vinceranno, così faccio una mia previsione, una schedina, questi 13. Oh, dal primo all'ultimo ci ha azzeccato. Il sindaco di Bologna non l'ha presa affatto bene, racconta Alberti. Prima ha parlato di coincidenza, poi a chi gli ha fatto presente che quei 13, altra coincidenza, già lavoravano per il comune, ha ammesso in effetti, parlando di alte specializzazioni, le possibilità che quelle persone potessero vincere le selezioni erano molto alte. Sta di fatto che l'ex assessore Amorosi, novello indovino, non pare intimorito. Si è presentato anche in prima fila con tanto di telecamera quando il sindaco ha annunciato alla commissione comunale i nomi dei 13 vincitori e ha ribadito i suoi sospetti. I profili richiesti per le singole posizioni sono così dettagliati da coincidere coi dirigenti del comune che già ricoprono quel ruolo. Il tutto per lo sconforto dei partecipanti esterni, consapevoli che non c'è gara. Ecco qui la seconda grande piccola storia da cui sono voluto partire. Indovina i vincitori, ben 13, di un concorso. La profezia di un ex assessore. O è un indovino, oppure, come è il mantra del quasi neo premier Monti, c'è tanto da fare in Italia. Tra 6 minuti ci ritroviamo. 24 mattino. È il giorno di Monti, allora. Oggi, questa mattina, 11:30, ora più o meno precisa, salirà al Quirinale, andrà dal Capo dello Stato dopo aver fatto le sue consultazioni con tutti i partiti e scioglierà la riserva. Accetterà, questo è dato per scontato, l'incarico, forse contestualmente presenterà la lista dei ministri e ovviamente sui giornali impazza il toto ministri. Nasce il governo tecnico, nodo Letta Amato, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore con Lina Palmerini che racconta un po' tutta la cronistoria di questi 2 giorni di consultazioni. Il nodo politico principale e che pare sia stato sciolto nella notte è questo. Ci saranno anche dentro Gianni Letta e Giuliano Amato nella squadra di Monti, come vorrebbe lo stesso professor Monti. Le previsioni dicono che no, non ci saranno. Questo perché? Per i veti incrociati da parte dei partiti. Il Partito Democratico ha chiesto più volte un segnale di discontinuità con il vecchio governo Berlusconi e quindi Gianni Letta non ce lo vogliono, tanto per tradurre. Dall'altra parte Giuliano Amato è visto dal Popolo della Libertà come non un tecnico ma un politico che ha lavorato molto anche nei governi di centrosinistra. E dunque, insomma, questi veti incrociati pare che porteranno alla decisione di Monti di non inserirli nella squadra, a fare solo tecnici. Ma insomma, tutto questo lo vedremo alle 11:30 in mattinata. Di certo si è tentato, appunto, fino alla notte, ritocchia i nomi nella notte, il dilemma Amato Letta, così titola anche il Corriere della Sera, cioè a capire che questo è il punto più importante. Il giornale che più si sbilancia dicendo che ormai la decisione è presa per un no, cioè non inserire Amato e Letta nella squadra dei ministri, è il Messaggero. Alberto Gentili in prima pagina scrive: vincono i veti incrociati su Amato e Gianni Letta e al Quirinale a notte che Mario Monti alza bandiera bianca, getta la spugna di fronte al tiro incrociato di PD e PDL davanti al primo veto bipartisan. Niente Giuliano Amato, che il professore voleva agli esteri, niente Gianni Letta, che il nuovo presidente del Consiglio desiderava nel ruolo di vice premier come assicurazione sulla vita. È un vero peccato, avrei preferito partire in modo diverso, dirà a notte fonda un Monti molto amareggiato, così viene definito sul Messaggero per questo veto bipartisan e veto incrociato da parte dei partiti. Alla fine hanno vinto i veti. Tra l'altro, racconta Repubblica, è proprio su questo che si è tentato, diciamo, un accordo in extremis, Francesco Bei e Umberto Rosso nel loro retroscena, pagina 3. Scrivono anche di una telefonata di Bersani a Gianni Letta durante le consultazioni con il professor Monti. Bersani avrebbe fatto poi una riunione, finita queste consultazioni, nello studio di Fini con Gianni Letta, Casini e Alfano. Parte una telefonata in viva voce con Bersani dal segretario del PD. Letta apprende che non c'è niente di personale contro di lui, ma la scelta è fatta e quindi il PD dice no a Gianni Letta. E infatti, scrive Repubblica, Mario Monti incassa la sua prima delusione. Non è bastato l'intervento deciso del Quirinale, né è servito il vertice segreto di lunedì sera in un'abitazione privata al centro di Roma, che ha visto seduti nello stesso salotto Bersani, Alfano e Casini. Quindi ci sarebbe stato per Repubblica un vertice segreto tra Bersani, Alfano e Casini. Alla fine, se la notte appena passata non porterà consiglio, il professore dovrà rassegnarsi e il suo sarà un governo composto esclusivamente di tecnici. Dunque, no a Letta e Amato. Ma insomma, in questi giorni in cui le sorprese poi sono sempre dietro l'angolo, vedremo questa mattina. Intanto i nomi, appunto, i toto ministri. Oh, spunta un nome, la sorpresa dell'ultima ora è il numero uno di Banca Intesa San Paolo, Corrado Passera, che viene dato per accreditato da tutti nel Toto Ministri allo sviluppo economico. Racconta La Stampa, che vi dedica mezza pagina, spunta passera per lo sviluppo. Lascerebbe la guida del gruppo Intesa San Paolo, ovviamente, per entrare in politica. Delle sue ambizioni politiche si era già scritto molto in passato, evidentemente ha deciso di scendere in campo. Questo è il nome più nuovo, l'ultimo nome che è venuto fuori, Corrado Passera per lo sviluppo economico. E poi sono sempre i soliti nomi che girano come tecnici, agli interni il prefetto Anna Maria Cancellieri, ma qualcuno fa sapere che il prefetto Pansa potrebbe spuntarla. Mentre un nome anche questo abbastanza nuovo per il welfare è la professoressa Elsa Fornero, che viene data da qualcuno come per certo, ma ovviamente al solito ogni giornale dà per certo quello che crede. All'istruzione ce la farà chi? Francesco Profumo, che è il presidente del CNR, oppure il rettore della Cattolica Ornaghi? Anche questo è un Toto Ministri abbastanza dato per certo tra i due, con il Fatto Quotidiano che fa sapere a pagina 3 che già Ornaghi scatena gli studenti, perché dicono varie associazioni studentesche è possibile che tra 60.000 docenti dell'università pubblica non ce ne sia uno in grado di guidare il ministero e bisogna ricorrere al rettore di un ateneo privato, in questo caso la Cattolica. Eccola qui già la polemica intorno alla possibile nomina di Lorenzo Ornaghi all'istruzione, ma si sa che ogni ministro all'istruzione fa infuocare il dibattito da sempre. E tra l'altro Ornaghi, oltre ad essere rettore della Cattolica, è il vicepresidente del quotidiano Avvenire, una garanzia per il mondo cattolico e una preoccupazione per molte associazioni studentesche che invece non si riconoscono in questa linea. Dunque Ornaghi scatena gli studenti, così titola il Fatto Quotidiano. Mentre Libero, per il secondo giorno consecutivo, sempre a firma Franco Bechis, che oggi da gran burlone si firma Fosca Binker, ma lui utilizza questi anagrammi del suo cognome, Fosca Binker, altri non è che lo stesso Franco Bechis. Per il secondo giorno consecutivo Libero appunto va un po' a spulciare in quello che è il passato di Mario Monti. Ieri, per la verità, più che il passato, si è spulciato sui patrimoni di Monti, sul reddito dichiarato quando furono messi online tutti i redditi degli italiani, e sul patrimonio immobiliare, qualche appartamento tra Milano e Varese. Oggi questo articolo è un po' più pepato ed è anche una notizia che scrive Libero finora è rimasta riservata. L'interesse privato del professore per i soldi pubblici alla Bocconi. Nel 1991 Monti, che allora era rettore, pressava Spadolini, che allora era presidente del Senato, per fare arrivare denari alle università. Ci riuscì e ancora oggi lo Stato paga 90 milioni di euro l'anno. È una vicenda che racconta Libero, riscopriamo, grazie alla sua attività lobbistica di quel periodo del professor Monti, la Bocconi, come la Cattolica di Milano e altri istituti privati, si portarono a casa un finanziamento pubblico che nel 91 fu di 87 miliardi di vecchie lire, dal 92 passò a 127 miliardi e tutt'oggi esiste, nel 2010 ammontava a 89,1 milioni di euro. Ad assegnare quei fondi pubblici fu la legge 29 luglio 91 numero 243 sull'ordinamento e finanziamento delle università statali legalmente riconosciute, tra queste anche la Bocconi, e a conquistare quella legge, scrive Libero, fu proprio Monti, che ottenne un privilegio raro all'epoca, l'approvazione rapida senza mai passare in aula né al Senato né a Montecitorio, grazie all'unanimità in seduta legislativa nelle commissioni istruzione dei due rami del Parlamento. Traccia di quella attività lobbistica di Monti si trova tra le carte dell'archivio Giovanni Spadolini, dove viene scoperta da Libero una lettera inviata da Spadolini a Monti 16 luglio 91 con scritto: caro rettore, sono intervenuto stamani su Andreatta prima del voto che è stato positivo in commissione, non ci sono state quindi difficoltà sul piano del bilancio e entro domani il provvedimento sarà licenziato. E quel giorno in effetti la legge fu licenziata, legge che stanziava i fondi anche per la Bocconi, oltre che la Cattolica, la LUIS, lo IULM, Una legge che aveva rischiato di incagliarsi proprio in commissione bilancio presieduta da Nino Andreatta. E Spadolini scrisse a Monti: oh, sono intervenuto presso Andreatta. Insomma, soldi ottenuti, missione compiuta. Scrive così Libero l'interesse privato del professore per i soldi pubblici alla Bocconi. Che farà Monti? Se sarà insediato, se otterrà la fiducia da parte del Parlamento. Oggi il Sole 24 Ore racconta che prende quota l'ICI progressiva, pagina 8. Cari italiani, già attrezzatevi. Marco Mobile e Marco Rogari raccontano le priorità del nuovo governo, le riforme, dalle privatizzazioni alle liberalizzazioni, dal lavoro alle pensioni. Ma certo, ci vogliono soldi subito per ottenere il pareggio di bilancio, come abbiamo promesso, per far fronte alle richieste dell'Unione Europea. E allora ecco che parte l'idea di una sorta di ICI progressiva. Di che cosa si tratta? Misura, tra l'altro, da far viaggiare in parallelo alla possibile rivalutazione delle rendite catastali. Gli studi di fattibilità sono già pronti. Sapete che dalla reintroduzione dell'ICI si è già stimato un ingresso di denaro per lo Stato di 3,5 miliardi di euro. Ma poi l'applicazione dell'ICI sulla prima casa al valore catastale e non a quello al valore di mercato erode gettito per ben 14 miliardi, a cui si aggiungono gli oltre 11 miliardi per gli altri immobili. Insomma, l'idea è quella di un ritorno all'ICI progressiva, così come sulle pensioni, sempre Marco Rogari a pagina 10 del Sole 24 Ore, sotto la dicitura che rimane tutti i giorni sul Sole 24 Ore, quel titolo "Fate presto", racconta del percorso più veloce per alzare l'età pensionabile anche attraverso una stretta alle anzianità, il calcolo dei trattamenti ancora più ancorato ai contributi versati, un argine ai privilegi nel sistema previdenziale. Queste sono le linee per quel che riguarda le pensioni sulle quali intende muoversi Mario Monti. Anche per La Stampa, pagina 3, pensioni e privatizzazioni, ecco la cura shock per l'economia. Secondo Fabio Martini, in questo retroscena sulle ipotesi di intervento di Mario Monti, l'idea è proprio quella di intervenire sulle privatizzazioni anche, subito. E in questo caso l'area di intervento è molto ampia, si va dalle quote pubbliche di Eni, Enel, Poste, Rai, alla possibile alienazione di una parte del ricchissimo patrimonio in mano ad enti locali, regioni, difesa. Per un'operazione così imponente, ecco perché Monti vorrebbe una squadra tosta sia al Ministero dell'Economia che a quello del Welfare. E si fanno i nomi per quel che riguarda l'economia, che potrebbe essere detenuta come interim dallo stesso Monti, di 4 viceministri: Vittorio Grilli, che viene dal Tesoro, Guido Tabellini, che è il rettore della Bocconi, Paolo De Ioanna, già capo di gabinetto di Ciampi e Padoa-Schioppa, e Maria Tarantola, che proviene e proverrebbe dalla Banca d'Italia. Queste le indiscrezioni. Intanto è il momento anche dell'Amarcord, perché c'è chi arriva, c'è chi lascia Palazzo Chigi, e da qui ripartiamo dopo il traffico. E allora eccoci qua, gente che arriva, gente che se ne va. Il ministro Romani intervistato, l'ex ministro, insomma, ormai per poche ore ancora, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 11, si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di Tremonti. Eccolo qui, è lo sport maggiore, no? Adesso spara addosso a Tremonti. Vede, tecnicamente, dice Romani, è il Ministero dell'Economia che deve dare l'avallo, doveva bollinare. Scusi? Bollinare, si dice così, insomma, verificare che ciascuna proposta stia economicamente dentro la legge di stabilità. E Tremonti non era d'accordo, non rispondeva, non si faceva trovare, oppure ti faceva mezza battuta polemica in corridoio. È così che siamo finiti dentro la crisi. Mentre invece è pronto al trasloco, ormai è fatto, Silvio Berlusconi. Racconta nel retroscena Carmelo Lopapa su Repubblica, dal titolo "Gli scatoloni del Cavaliere": questa casa non l'ho mai sentita mia, credetemi, lasciarla non mi suscita alcuna emozione. Avrebbe detto così Berlusconi lasciando Palazzo Chigi, ci sono anche qualche retroscena dei tantissimi regali, ovviamente tutti i rappresentanti di Stato ottengono tanti regali dalle persone che vengono in visita. E scrive Carmelo Lo Papa: Berlusconi ha raccomandato solo di fare imballare e spedire solo due doni tra i mille ricevuti in questi anni: la scimitarra regalata dal presidente dittatore kazako Nazarbayev, oggetto di sperticati elogi da parte di Berlusconi in visita ad Astana, e quindi quel sontuoso vaso Ming portatogli in dono a Palazzo Chigi dalla delegazione cinese. Tra l'altro, scrive Lo Papa, in presidenza ricordano ancora le facce dei diplomatici della Repubblica Popolare quando il cavaliere fece finta che il prezioso ovone gli cascasse dalle mani, e soprattutto la sua battuta corredo: belli questi fiorellini, la prossima volta però portatene una con raffigurazioni del Kama Sutra. Così disse Berlusconi agli attoniti rappresentanti della Repubblica Cinese. Tra l'altro, Lo Papa fa notare, nessuno lo avvertì che il celebre trattato di arte amatoria sarebbe indiano e non cinese. Mentre vi segnalo, visto che è tempo di casta e sempre di lotta alla casta, sono temi che so che vi piacciono, vi piacciono per modo di dire, molti fanno anche arrabbiare. Sul Quotidiano Nazionale, a pagina 19, la giunta lombarda dice: toglieteci tutto, ma non le auto blu. C'è stata una mozione dell'Italia dei Valori che proponeva di togliere le auto blu alla giunta e togliere almeno il maxi rimborso economico sostitutivo delle auto blu, cioè ci sono assessori e sottosegretari della giunta Formigoni che non utilizzano l'auto blu e per questo hanno un rimborso. Una proposta dell'Italia dei Valori era per togliere questo rimborso, no, è stata bocciata sontuosamente, 39 no, 26 sì, con la storica frase del capogruppo del PDL Paolo Valentini diciamo al Consiglio regionale lombardo, che dice: una cosa sono gli sprechi e i privilegi, un altro è il sangue che la piazza chiede in questo momento alla politica. Ci chiedono il sangue. Voglio per la cronaca andare in prima pagina, tornare sul Sole 24 Ore. Voglio segnalare un'inchiesta straordinaria di Claudio Gatti, uno che ne firma tante di inchieste straordinarie. Oggi la trovate in prima pagina. Il titolo è Risparmio tradito, il sistema Madoff in versione milanese. È la storia di un ricercatore sospeso dalla Bocconi. Si chiama Alberto Michalizzi, sul quale la Guardia di Finanza da ieri sta indagando. Perché l'ipotesi è che abbia circuito e abbia fatto sparire fondi per 550 milioni di euro. Reggetevi forte, 550 milioni di euro. Claudio Gatti lo paragona già al Madoff, cioè il più grande truffatore della storia degli Stati Uniti, italiano. Il sistema Madoff anche a Milano. Quelle di Bernard Madoff e di Alberto Michalizzi sono due storie straordinariamente parallele. Avevano creato un meccanismo di fondo master alimentato da sottofondi feeder finanziati da alcune delle più prestigiose banche del mondo. Si vantavano di aver superato illesi l'estate del 2008. Entrambi sono franati nel dicembre 2008 e ora si è scoperto che nel più classico schema Ponzi avevano pagato i primi investitori coi soldi dei secondi. Nella primavera del 2009 le loro strade si erano divise. Madoff ha preso la via della galera, dove deve scontare 148 anni di carcere, mentre Michalizzi quella della Bocconi, dove ha rioccupato al tempo pieno il posto di ricercatore che aveva. Ma ieri la Guardia di Finanza le ha perquisito abitazioni e uffici. Michalizzi è infatti indagato per associazione a delinquere al fine di commettere truffe e aggravate. L'avventura è quella dei fondi Dynamic Decision, nata nel 2005 sotto i migliori auspici, e in questa lunga inchiesta che trovate un'intera pagina del Sole a pagina 29, secondo Claudio Gatti si potrebbe, e secondo la Guardia di Finanza di Milano e quindi la Procura di Milano, si potrebbe nascondere una vicenda alla Bernard Madoff all'italiana. La trovate appunto sul Sole 24 Ore. Che dire, sono in rapida conclusione. segnala una storia da insulti e gossip a luci rosse a trani, le toghe fanno a botte, una vicenda raccontata dal giornale a pagina 15, ristorante di Sassari, luglio 2011, c'è uno 007, gli ispettori del Ministero della Giustizia che sta pranzando, arriva un altro, un magistrato donna, entra nel ristorante, lo prende a borsettate, procurandogli 17 punti di sutura. Che succede? Magistrato donna manda il collega all'ospedale, il CSM la trasferisce. È una vicenda di insulti, gossip, luci rosse, raccontata appunto da Gianmarco Chiocci sul giornale oggi a pagina 15. Con questo concludo il giornale radio.